Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Federico Baccomo, che si fa anche chiamare Duchesne, autore di La gente che sta bene, pubblicato da Marsilio. Era tra l'altro l'autore di Studio illegale, un libro che nel 2009 aveva avuto un grandissimo successo perché raccontava un po' i retroscena degli studi legali milanesi. Anche in questo caso il protagonista è un avvocato. Si racconta la vita privata e la vita professionale di questo avvocato, Giuseppe Sobreroni. La prima cosa che mi viene in mente, appunto, leggendo questo libro, da, come dire, per definire questo personaggio, è che è veramente cinico. Come te lo sei immaginato? Allora, sì, il personaggio è veramente pessimo. Ed è un personaggio che già compariva in Studio illegale. Era una sorta di nemesi del protagonista di Studio illegale ed era il capo più o meno stupidotto, diciamo, e arrogante del protagonista. Ed era una macchietta in qualche modo. Però io mi rendevo conto che quando scrivevo Studio illegale, ok, ci si mette lì alla scrivania, ma quando scrivevo di Giuseppe in particolare, che è questo personaggio, mi sedevo un po' più comodo sulla sedia perché sapevo che mi sarei divertito, perché proprio nemesi del personaggio appunto di Studio illegale, ma anche nemesi mia in qualche modo, un uomo dai pensieri imbarazzanti e piuttosto, tu dici, cinico, ma anche peggio in qualche modo. Sì, veramente in certi momenti io ho provato orrore per questo, ma anche perché poi, come dire, il sentimento di avversione verso questo personaggio si avverte pagina dopo pagina. All'inizio gli si dà, come dire, qualche chance di speranza, dice vabbè, sarà stato giusto una frase, un atteggiamento, invece poi si capisce che è un vero bastardo. Sì, lui peggiora. All'inizio se la prende magari con uno che al telefono lo tratta un po' male, poi comincia a prendersela con la segretaria, poi se la prende con la categoria dei vecchi, degli obesi, insomma ce l'ha un po' con tutti, ed è una lenta discesa nella sua cattiveria. Però appunto avevo questo personaggio in mano che mi divertiva tanto ed era una macchietta, e la tentazione era quella di costruirci un racconto, qualcosa intorno, e più ci pensavo più mi nasceva un po' la sua vita, quindi vedevo la moglie, vedevo che tipo di figli poteva avere, che tipo di rapporto con i figli, vedevo come si comportava al lavoro, e alla fine è nato un vero e proprio romanzo. Intorno poi all'idea principale, che non sveleremo, che arriverà però verso la fine del libro, proprio perché la descrizione del suo ambiente era la cosa che mi divertiva di più. Ed è un personaggio pessimo, ed è in questo è anche abbastanza sorprendente, proprio perché non fa nulla per cercare di sedurre un lettore. Per capire quanto è cinico quest'uomo, vi leggo proprio tre righe nel suo rapporto con il figlio Giacomino. Il figlio è piccolo, insomma. Giacomino dice: posso tenere la luce accesa stasera? E lui risponde: la luce accesa? No, devi crescere. Ma io ho paura dei fantasmi, dice il padre. Che ti devo dire, Giacomino? Beato te che ti rimane dell'idealismo. C'è anche sarcastico il papà. Sì, lui ha questo modo di parlare con la gente, che è stata forse la parte più difficile da scrivere, in cui a modo suo dice anche delle cose intelligenti, delle battute in qualche modo, ma che devono sembrare involontarie, perché il libro è scritto in prima persona singolare. Quindi lui deve descriversi come una persona seria, di sani principi, di successo fondamentalmente, e poi se ne esce con delle frasi che tutto sommato ai suoi occhi appaiono intelligenti. Agli occhi alle orecchie di chiunque lo ascolti invece sembrano delle grandi stupidaggini, per non dire di peggio. E a questo bambino appunto dice che ha paura dei fantasmi, non trova niente di meglio che dirgli: beato te che ti rimane dell'idealismo, e passare oltre. E le sue risposte sono sempre così alle persone. Infatti, a differenza ad esempio di Studio illegale, qui la risata, in Studio illegale veniva un po' cercata la risata, quindi era un libro anche un pochino ruffiano da quel punto di vista. In questo caso invece la risata dovrebbe essere involontaria e far sì che quando ridi poi dici: sì, ma di che cosa sto ridendo? È una risata amara, insomma, in molte parti del libro. Prima si accennava anche alla figura della moglie. Allora, questa moglie che è praticamente non sottomessa, ma è proprio come non calcolata, insomma, dal marito, come se non avesse pensieri, come se non avesse volontà. Sì, la moglie tra l'altro è un personaggio che mi è stato un po' rinfacciato, soprattutto dalle lettrici femmine, proprio perché è l'unica, insomma ce n'è anche un'altra, ma è il personaggio femminile principale del libro e ne esce molto male in qualche modo. La verità è che quando si scrive un libro e ci si mette negli occhi di un personaggio così, devi cercare di trovargli le persone che lo potrebbero davvero circondare. E un uomo di quel tipo lì non si circonda di una donna forte o di una donna che si fa rispettare, si circonda di una persona in qualche modo debole, che però ha un gran cuore, perché soltanto con un gran cuore puoi stare vicino a quest'uomo. A me piace molto il personaggio della moglie, perché è vero che è debole, succube, Però è l'unica portatrice di un minimo di bontà in quel libro, assieme al figlio, ma il figlio chiaramente ha la bontà dei bambini. Lei ha la bontà di una che in qualche modo è stata sconfitta. Magari quando ha sposato quell'uomo, facciamo 20 anni fa, era un uomo diverso che è peggiorato. Eppure continua a starle vicino ed è davvero l'unica portatrice di un minimo di positività. In questo fa sì che io mi sia affezionato. In questo libro si racconta appunto la vita privata, la vita professionale di questo avvocato, quindi insomma anche la sua scalata al successo, la sua carriera, il suo arrivismo. Abbiamo detto appunto che lui è un uomo abbastanza cinico. Quanto di te c'è in questo avvocato? Ma allora, io passo per essere uno molto cinico, cioè mi viene rinfacciato abbastanza spesso questa cosa, che però, secondo me, poi chiaro la credibilità di chi afferma queste cose in prima persona, no, non è esattamente così. Cioè, il cinismo è una sorta di realismo portato all'estremo, ma da parte di uno che poi si dispiace del fatto che le cose non vanno bene, che gli amori finiscono, che non c'è il lavoro, di qualunque tipo di tragedia moderna. Ed è una sorta di tutela, almeno per quanto mi riguarda, io rido delle cose che magari possono un pochino più spaventarmi. Appunto, il primo libro era nato da un'esperienza personale, io mi ero trovato a un certo punto disoccupato a 29-30 anni, avevo lasciato il mio lavoro e sono stato 8 mesi senza lavorare. E quando mi lamentavo di questo tipo di situazione, mi rendevo conto che mi divertivo meno e ci stavo ancora peggio. E allora cominci a vederla da un altro punto di vista, che è quello dell'ironia. Quella famosa leggenda che i comici o i pagliacci sono quelli poi tristi nella vita, credo che sia in realtà vera, proprio perché è una sorta di reazione, la tua unica reazione, la tua soluzione è trovare l'aspetto ironico della situazione. Il protagonista è anche un uomo che, insomma, vuole far bella figura in società, che ci tiene a stare, insomma, nell'alta borghesia, in un certo tipo di ambienti. Tant'è vero che lui cita proprio il titolo del libro, vuole stare fra la gente che sta bene. Chi è questa gente che sta bene? A me piaceva molto questo titolo, proprio perché capisci già che verrà contraddetto nel libro. Ed è vero, lui è uno che cerca di non tanto di star bene, ma di convincere gli altri che lui sta bene. C'è una frase che io non ho messo nel libro, in cui lui racconta di un precedente matrimonio e dice: è vero, ho un matrimonio, ho un divorzio alle spalle, ma dire matrimonio fallito non mi piace perché è un punto di vista pessimista. Io preferisco parlare di una separazione ben riuscita. Quindi lui cerca sempre di ribaltare le situazioni anche negative per apparire bene agli occhi degli altri, ed è quello che in realtà lo condanna, perché se tu insegui quel tipo di apparenza, quel tipo di status sociale, senza poi avere le basi per tenerlo in piedi, alla fine vai a schiantarti. Abbiamo già parlato del tuo primo libro, Studio Illegale, che ha avuto appunto un grande, grande successo, insomma, se ne è parlato moltissimo. Da questo film, da questo libro verrà tratto appunto anche un film. Sì, verrà tratto un film, anzi è già stato girato il film, in fase immagino di post-produzione, che dovrebbe uscire in autunno, con la regia di Umberto Carteni, e il personaggio principale, insomma, sarà interpretato da Fabio Volo. Insomma, è un'altra di quelle storie che a ripensarci col senno di poi, appunto, che molli un lavoro, stai disoccupato, apri un blog, esce un libro, alla fine diventa un film, ti senti un po' una sorta di morale vivente, però sono cose che possono succedere. In due parole, studio illegale, il mondo degli avvocati, qui un avvocato. Insomma, tu hai raccontato l'aspetto peggiore degli avvocati. Ti odiano quindi? Insomma, poi l'avvocato alla fine l'odio è un sentimento che prova talmente spesso, secondo me, che nei confronti dei clienti, nei confronti dell'avvocato in controparte, che poi non è una novità aggiungere un altro nemico. Però la verità è che a me serviva l'avvocato come tipo di rappresentante, insomma, rappresentante di una certa umanità. Grazie a Federico Baccomo, soprannominato anche Duchesne, autore di La gente che sta bene, pubblicato da Marsilio. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.